come in un quadro che ho lasciato a metà, come in un film che finale non ha. Quello che manca nella vita sei tu, le mie parole d'amore non volano più. Anima y